Atti di Andrea Apostolo 1. La regione di Andrea e la liberazione di Matteo. Dopo il nobile e glorioso trionfo dell'ascensione del Signore, gli apostoli si dispersero in diverse regioni per predicare la parola di Dio. All'apostolo Andrea toccò predicare il Signore Gesù Cristo nella provincia della Caia, mentre all'apostolo Matteo, che è pure evangelista, toccò annunziare la parola della salvezza nella città di Mirmidone. Ma gli abitanti di quella indegna città, mal sopportando quanto udivano a proposito dei miracoli del nostro Redentore e non volendo distruggere i propri templi, presero il beato apostolo, gli cavarono gli occhi, lo cacciarono in prigione con l'intenzione di ucciderlo pochi giorni appresso. L'angelo del Signore andò allora dall'apostolo Andrea e gli disse: «Alzati e va nella città di Mirmidone e libera tuo fratello Matteo dallo squallore del carcere in cui si trova». E gli domandò: «Signore, ma io non conosco la strada. Come andrò?» «Va», rispose, «alla spiaggia del mare. La troverai una nave. Sali subito su di essa. Io, infatti, sarò la guida del tuo viaggio». Andrea eseguì la parola del Signore. Alla spiaggia trovò una nave e vi salì sopra. I venti furono favorevoli. Navigò felicemente fino alla città e, appena oltrepassò la porta, andò al carcere. Alla vista dell'apostolo Matteo che se ne stava con altri prigionieri nello squallore del carcere, pianse amarissimamente. Poi, dopo avere pregato insieme, Andrea disse: «Signore Gesù Cristo, che noi predichiamo fedelmente e per il cui nome sopportiamo tante cose, Tu che con immensa bontà ti sei degnato di dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, l'andatura ai paralitici, la purezza ai lebbrosi, la vita ai morti, apri, te ne prego, gli occhi del tuo servo affinché possa andare ad annunziare la tua parola». Improvvisamente, quel luogo tremò. Nel carcere risplendette una grande luce, gli occhi del beato apostolo furono ristabiliti, furono infrante le catene di tutti, fu spaccato il legno nel quale erano avvinti i loro piedi, e tutti magnificavano Dio, dicendo: «Grande è il Dio predicato dai suoi servi». Dal beato Andrea furono poi estratti dal carcere ed ognuno se ne andò a casa sua. Matteo però si allontanò da quel luogo. Predicazione nella città di Mirmidone. Dopo l'apostolo Andrea prese a predicare la parola del Signore Gesù agli abitanti. Ma quegli uomini, ben sapendo quanto era accaduto ai rinchiusi in carcere, presero Andrea, gli legarono i piedi e lo trascinarono per le piazze della città. Già gli si strappavano i capelli dal capo e scorreva il sangue dalla testa, allorché pregò il Signore: «Apri, Signore, te ne prego, gli occhi dei loro cuori affinché conoscano te vero Dio e desistano da questa iniquità». Non addossare loro questo peccato poiché non sanno ciò che fanno. Improvvisamente, una grande paura si diffuse tra tutti gli abitanti di quella città tanto che, dopo avere liberato l'apostolo, dicevano: «Abbiamo peccato contro di te, ignari di quanto facevamo. Ti supplichiamo, dunque, Signore, di perdonare il nostro delitto e di indicarci la via della salvezza. Non discenda la collera di Dio su questa città». Mentre dicevano questo, erano prostrati al suolo davanti ai piedi di Andrea. Ed egli, dopo averli rialzati, prese a predicare loro il Signore Gesù Cristo, i miracoli che aveva fatto in questo mondo e come, con il proprio sangue, abbia redento il mondo che stava andando in rovina. I credenti ricevettero la remissione dei peccati e furono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 2. Il cieco indemoniato. Allontanatosi da quel luogo, Andrea ritornò nella sua regione. Mentre camminava con dei suoi discepoli, gli si avvicinò un cieco e gli disse: «Andrea, apostolo di Cristo, io so che tu puoi restituirmi la vista, ma non la voglio a meno che, te ne prego, tu ordini a quelli che sono con te di darmi del denaro affinché possa avere vitto e vestito a sufficienza». Il beato Andrea gli rispose: «So bene che questa non è la voce di un uomo, ma del diavolo che impedisce a questo uomo di riacquistare la vista». E rivoltosi a lui, gli toccò gli occhi e subito riacquistò la luce e glorificava Dio. Siccome poi aveva un abito sporco e indecoroso, l'apostolo disse: «Toglietegli gli abiti sporchi e dategli un vestito nuovo». E dato che si spogliavano quasi tutti, l'apostolo disse: «Basta. Prenda questo». Si prese così il vestito, ringraziò e ritornò a casa sua. 3. Il servo di Demetrio da Amasea. Demetrio, primo cittadino di Amasea, aveva un servo egiziano che amava con un amore eccezionale. Costui fu colpito da febbre ed esalò lo spirito. Venuto a conoscenza dei segni che faceva il beato apostolo, Demetrio andò da lui, si prostrò ai suoi piedi con lacrime e gli disse: «Ritengo che nulla ti sia difficile, ministro di Dio. Il mio ragazzo che amavo di amore eccezionale, è morto. Ti supplico di venire a casa mia e restituirmelo». All'udire ciò il beato apostolo, commosso per le sue lacrime, andò nella casa ove giaceva il ragazzo e, predicando ininterrottamente quanto concerne la salvezza del popolo, si rivolse al cadavere, dicendo: «Dico a te, ragazzo, in nome di Gesù Cristo, Figlio di Dio, alzati e sta su sano e salvo». Subito il ragazzo egiziano s'alzò, ed egli lo restituì al suo Signore. Allora tutti coloro che ancora non credevano, credettero in Dio e furono battezzati dal Santo Apostolo. 4. Sostrato è la madre. Un ragazzo cristiano, di nome Sostrato, andò segretamente dal beato Andrea per dirgli: «Mia madre, invaghita della mia bellezza, mi perseguita di continuo affinché mi unisca a lei». Giudicando questo un'infamia, fuggì inorridito. Ma lei, mossa da fiele, andò dal proconsole accusandomi del suo crimine. So che, quando sarò accusato, non risponderò nulla. Preferisco, invero, perdere la vita piuttosto di scoprire il crimine di mia madre. Ti confesso questo affinché abbi la compiacenza di supplicare il Signore per me acciò che non perda la vita, innocente». Mentre egli parlava così vennero i ministri del proconsole per prenderlo. Ma il beato apostolo, dopo aver fatto una preghiera, s'alzò e andò con il ragazzo. La madre l'accusava insistentemente, affermando: «Costui, signor proconsole, dimentico dell'affetto della materna pietà, si rivolse a me con intenzione di stupro. A malapena riuscii a sottrarmi per non essere violata da lui». Rivolto al ragazzo, il proconsole disse: «Ragazzo, di sé è vero quanto sostiene tua madre». Ma egli taceva. Il proconsole l'interrogò più volte, ma non rispose mai. Siccome persisteva nel silenzio, il proconsole tenne consiglio con i suoi sul da farsi, mentre la madre del ragazzo prese a piangere. A lei, il beato apostolo Andrea disse: «O infelice, che levi un pianto di amarezza per l'incesto che volevi compiere su tuo figlio. Sotto la fiamma della libidine, sei giunta a tal punto di concupiscenza da non temere di perdere il tuo unico figlio». Dopo che egli le parlò così, la donna disse: «Ascolta, proconsole. Dopo che mio figlio aveva tentato di agire così, si pose al seguito di quest'uomo e non si allontanò più da lui». Irritato da ciò, il proconsole ordinò che il ragazzo fosse chiuso in un'otre da parricida e gettato nel fiume, e Andrea rinchiuso in carcere fino a quando fosse scelto il supplizio per eliminare anche lui. Ma alla preghiera del beato apostolo vi fu un grande tuono e un terremoto, il proconsole cadde dalla sedia, tutti furono prostrati a terra, mentre la madre del ragazzo fu colpita e morì. Allora il proconsole si prostrò ai piedi del santo apostolo e disse: «Servo di Dio, abbi pietà di quelli che stanno per perire affinché non ci inghiottisca la terra». E dalla preghiera del beato apostolo, cessò il terremoto e si quietarono fulmini e tuoni. Egli poi, passando da quelli che giacevano a terra, li risanò tutti. Il proconsole accolse la parola di Dio, credette nel Signore con tutta la sua famiglia e furono battezzati dall'apostolo di Dio. 5. Gratino e famiglia. il figlio di Gratino di Sinope, mentre si stava lavando nel bagno delle donne, fu colpito da forti dolori di testa ed era terribilmente tormentato da un demone. Allora Gratino mandò una lettera al proconsole nella quale domandava di supplicare Andrea perché andasse da lui, già che egli era stato colpito dalla febbre ed era gravemente malato. Sua moglie poi era gonfia a causa dell'idropisia. Alla preghiera del proconsole, Andrea salì su di un veicolo e andò nella città. Quando egli entrò in casa di Gratino, lo spirito maligno agitò il ragazzo ed egli andò a prostrarsi ai piedi dell'apostolo. Egli lo riproverò: allontanati dal servo di Dio, disse, nemico del genere umano. E subito, con un grande grido si allontanò. Andato poi al letto dell'uomo, disse, giustamente sei afflitto da una noiosa infermità, avendo tu abbandonato il letto matrimoniale per unirti a una prostituta. In nome del Signore nostro Gesù Cristo, alzati guarito e non peccare più per non cadere in una malattia più grave. E fu guarito. Disse poi alla moglie, la concupiscenza degli occhi ti ha sedotta da abbandonare il marito per unirti ad altri. E proseguì, Signore Gesù Cristo, supplico la tua pia misericordia di esaudire il tuo servo e concedere che qualora questa donna ritorni al fango della libidine dove s'era impigliata prima, non sia assolutamente guarita. Ma se tu, Signore, alla cui potenza sono note anche le cose future, sai che si potrà astenere da questo peccato, ordina che sia guarita. Mentre così parlava, il liquido se ne andò via dalla parte inferiore e fu risanata con suo marito. Il beato apostolo spezzò il pane e glielo diede. Lei, ringraziando, lo prese e credette nel Signore con tutta la sua famiglia. Da allora in poi lei suo marito non caddero più nel peccato che precedentemente avevano commesso. Per mezzo dei suoi servi. Gratino inviò poi grandi doni al santo apostolo, lui li seguì con la moglie, prostrati davanti a lui, supplicavano che accettasse le loro offerte. Egli disse loro, non spetta a me, carissimi, accettare queste cose, tocca piuttosto a voi distribuirle ai bisognosi. E non ricevette nulla di quanto gli offrivano. 6. L'apostolo a Nicea. Dopo partì per Nicea, ove sette demoni dimoravano tra le tombe poste al lato della strada. A mezzogiorno lanciavano sassi contro la gente e avevano già ucciso molti. All'arrivo del beato apostolo, tutta la città gli andò incontro con rami d'olivo, innalzando lodi e dicendo, «La nostra salvezza sta nelle tue mani, o uomo di Dio!» Sentito come stavano le cose, il beato apostolo disse, «Se credete nel Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio Onnipotente, con lo Spirito Santo, un solo Dio, con il suo aiuto sarete liberati dall'infestazione dei demoni. Ma essi gridavano: crediamo qualsiasi cosa tu predichi e obbediremo al tuo comando, purché siamo liberati da questa minaccia. Egli, ringraziando Dio della loro fede, ordinò che gli stessi demoni fossero presenti davanti a tutto il popolo e vennero sotto forma di cani. Rivolgendosi allora al popolo, il beato apostolo disse: ecco i demoni che vi hanno contrastato. Ma se crederete che, nel nome di Gesù Cristo, posso ordinare loro di lasciarvi stare, confessatelo qui davanti a me. Essi gridarono: crediamo che il Gesù Cristo che tu predichi è figlio di Dio. Allora il beato Andrea comandò ai demoni: andatevene in luoghi deserti e non coltivati, non siate più dannosi ad alcun uomo nel modo più assoluto. N. Avvicinatevi ovunque è invocato il nome del Signore, nell'attesa di ricevere il supplizio del fuoco eterno che vi spetta. Mentre così parlava, i demoni mandarono un ruggito e scomparvero dagli occhi dei presenti, e la città fu così liberata. Il beato apostolo li battezzò e assegnò loro Callisto, come vescovo, uomo saggio che osservava in modo irreprensibile quanto aveva ricevuto dal Maestro. 7. Il giovane ucciso dai sette cani. Mentre egli si avvicinava alla porta di Nicodemia, si stava trasportando un morto su di una barella, il vecchio padre, sostenuto dalle braccia dei servi, solo a stento riusciva a seguire la sepoltura. Anche la madre, aggravata dalla stessa età, con i capelli spettinati, seguiva il feretro lamentandosi a gran voce e dicendo: guai a me! Alla mia età devo mettere per la sepoltura del figlio quanto avevo preparato per la mia sepoltura. Mentre lamentandosi con queste e altre simili espressioni accompagnavano il cadavere gridando, giunse l'apostolo di Dio. Commosso dalle loro lacrime, disse: ditemi, vi prego, che è capitato a questo fanciullo per distoglierlo da questa luce? Ma essi avevano paura e non risposero. Allora l'apostolo udì questo dai servi: mentre questo giovane si trovava in camera da solo, giunsero improvvisamente sette cani e gli si scagliarono contro. Ridotto così miseramente a pezzi, cadde a terra e morì. Allora il beato Andrea, sospirando e alzando gli occhi al cielo, disse, tra le lacrime: so, Signore, che si tratta dell'insidia di quei demoni che ho cacciato dalla città di Nicea. E ora, Gesù benigno, ti supplico di risuscitarlo affinché il nemico del genere umano non si rallegri della sua morte. Così dicendo, si rivolse al Padre: che mi darai, se ti restituirò tuo figlio sano e salvo? Quello gli rispose: non ho nulla più prezioso di lui. Se, dunque, dietro il tuo ordine, egli risorgerà alla vita, darò lui. Il beato apostolo, allargando nuovamente le braccia verso il cielo, pregò: ritorni, ti prego, Signore, l'anima del fanciullo, affinché tutti abbandonino gli idoli e si convertano a te. La sua rianimazione sia la salvezza di tutti coloro che stanno per perire, e così più non siano sotto il dominio della morte, bensì, divenuti tuoi, meritino la vita eterna. I fedeli risposero: Amen. Ed egli, rivolto al morto, disse: In nome di Gesù Cristo, alzati e stai dritto sui tuoi piedi. Subito risorse tra lo stupore del popolo, mentre tutti i presenti gridavano a gran voce: Grande è il Dio Cristo, predicato dal suo servo Andrea. I parenti del fanciullo diedero al loro figlio molti doni, che egli offrì al beato apostolo, ma questi non accettò nulla. Ordinò invece al fanciullo di seguirlo fino in Macedonia, istruendolo con le parole di salvezza. 8. Viaggio a Bisanzio. Partito di lì, l'apostolo del Signore salì in una nave diretta verso il mare dell'Ellesponto. Navigava diretto a Bisanzio. Ma ecco che incapparono in un mare tempestoso, dominato da un forte vento, tanto che la nave stava per affondare. Mentre tutti si aspettavano la fine, il beato Andrea pregò il Signore, poi comandò al vento e lo fece tacere. Le onde del mare si quietarono e ritornò la bonaccia. Liberati tutti dal presente pericolo, giunsero a Bisanzio. 9. Di cui proseguirono per la Tracia. Qui, da lontano, videro una folla di uomini che portavano in mano spade e lance come se li volessero assalire. Appena li scorse, l'apostolo Andrea fece verso di loro il segno di croce, dicendo: Ti prego, Signore, di far cadere a terra il loro padre che li ha istigati a fare questo. La potenza divina li sconvolga, sicché non possano nuocere a quanti sperano in te. Allorché diceva questo, un angelo del Signore passò con grande splendore, toccò le loro spade e tutti caddero bocconi, e quando passò il beato apostolo non ne ebbe nocumento alcuno. Gettate le spade. Tutti, infatti, lo adoravano. L'angelo del Signore si allontanò poi da loro con un grande chiarore. 10. Il santo apostolo, quando giunse a Perinto, città marittima della Tracia, trovò una nave in partenza per la Macedonia. Gli apparve nuovamente un angelo del Signore e gli ordinò di imbarcarsi sulla nave. Predicando egli in nave la parola di Dio, il nocchiero e tutti quelli che erano con lui credettero nel Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Santo glorificava Dio che anche in mare non mancasse chi prestasse orecchio alla sua predicazione e credesse nel Figlio di Dio Onnipotente. 11. I fratelli di Filippi. A Filippi c'erano due fratelli, uno dei quali aveva due figli, l'altro due figlie, ed essendo nobili, avevano molti beni. Uno disse all'altro, abbiamo abbondantissime ricchezze, ma tra i cittadini non ve n'è alcuno degno di unirsi alla nostra stirpe. Su, facciamo un'unica famiglia, i miei figli prendano le tue figlie, e così le nostre ricchezze resteranno più facilmente unite. Questo parlare fu gradito al fratello e fecero un patto al quale si obbligarono con la caparra inviata dal padre dei giovani. Giunto il giorno delle nozze si fece sentire da loro la parola del Signore, dicendo, «Non unite i vostri figli fino a quando non venga il mio servo Andrea». Tre giorni dopo venne il beato apostolo. Vedendolo, se ne rallegrarono molto, gli andarono incontro con corone, si prostrarono ai suoi piedi e dissero, essendo stati avvertiti, aspettavamo, servo di Dio, la tua venuta affinché ci dica che dobbiamo fare. Ci giunse, infatti, la parola di aspettarti e ci fu detto di non unire i nostri figli prima della tua venuta. Il volto del beato apostolo era allora splendente come il sole, tanto che tutti ne erano ammirati e onoravano Dio. L'apostolo rispose, figlioli, non vogliate lasciarvi ingannare, non vogliate ingannare questi giovani ai quali può apparire un'azione giusta. Fate piuttosto penitenza, avendo peccato contro il Signore volendo unire in matrimonio dei consanguinei. Noi allontaniamo evitiamo le nozze giacché, fin da principio, Dio ha ordinato che maschio e femmina si unissero, condanniamo però gli incesti. Dopo che ebbe parlato così, i loro parenti furono commossi e dissero, ti domandiamo, Signore, di supplicare per noi il tuo Dio poiché è nell'ignoranza che abbiamo compiuto questo delitto. I giovani, poi, vedendo splendere il volto dell'apostolo come il volto di un angelo di Dio, dicevano, «La tua dottrina è grande e integra, uomo beato, e non lo sapevamo. Ora conosciamo che Dio parla per mezzo tuo». L'apostolo santo rispose, conservate senza macchia quanto avete udito, e il Signore sarà con voi e riceverete la ricompensa della vostra condotta, cioè la vita sempiterna, che non ha fine. Così dicendo l'apostolo li benedisse e tacque. 12. La domanda del giovane è suo. A Tessalonica c'era un giovane molto nobile e ricco, di nome suo. All'insaputa dei suoi parenti, andò dall'apostolo e, prostratosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo, «Servo di Dio, indicami, ti prego, la via della verità. Ho saputo, infatti, che tu sei un vero ministro di colui che ti ha mandato». Il santo apostolo gli predicò il Signore Gesù Cristo. Il giovane credette, si aggregò al santo apostolo, più non ricordò i parenti né ebbe cura delle ricchezze. Ma i parenti lo cercavano e, saputo che si trovava a Filippi con l'apostolo, andarono con Doni pregandolo che si separasse da lui. Ma egli non voleva. Diceva, volesse Iddio che non aveste neppure queste ricchezze, bensì conoscendo l'autore del mondo, che è il vero Dio, liberaste le vostre anime dall'ira futura. Il santo apostolo, lasciato il ritiro, prese a predicare loro la parola di Dio. Ma essi non volevano ascoltare. Ritornò allora al giovane e chiuse la porta di casa. Ma essi radunarono una coorte e poi andarono a incendiare la casa in cui si trovava il giovane, dicendo: «Perisca il giovane che abbandonò parenti e patria!» Con fascine e fiaccole incominciarono a dare fuoco alla casa. Quando già le fiamme erano alte, il giovane prese un'ampolla d'acqua e disse: «Signore Gesù Cristo, tu che hai in tuo potere la natura di tutti gli elementi, tu che abbeveri quanto è arido e fai seccare quanto è bagnato, tu che estingui quanto è infuocato e accendi quanto è spento, spegni questi fuochi affinché i tuoi non si raffreddino, ma si accendano alla fede». Così dicendo, sparse l'acqua dell'ampolla e subito tutto l'incendio si spense quasi che non fosse mai stato acceso. A questa vista, i parenti del giovane dicevano: «Ecco che nostro figlio è già divenuto mago». E, presa una scala, volevano salire fino al ritiro per ucciderlo con la spada. Ma il Signore li acceò, tanto che non vedevano i gradini della scala. E mentre persistevano in questa perversità, un cittadino di nome Lisimaco disse: «Perché, uomini, vi affaticate per nulla? Dio, infatti, combatte in favore di queste persone e voi lo ignorate? Desistete da questa follia affinché l'ira celeste non vi distrugga». Allora, con il cuore pentito, tutti presero a dire: «Colui che questi venerano e che noi abbiamo tentato di perseguitare, è il vero Dio». Mentre essi così parlavano e già calavano le ombre della notte, improvvisamente risplendette una luce e illuminò gli occhi di tutti. Salirono dunque là ove si trovava l'apostolo di Cristo e lo trovarono in preghiera. Prostrati anch'essi a terra esclamavano: «Ti preghiamo, Signore, di pregare per i tuoi servi sedotti dall'errore». Era tanto il pentimento del cuore di tutti, che Lisimaco disse: «Cristo, predicato dal suo servo Andrea, è veramente figlio di Dio». Rialzati poi dall'apostolo, furono corroborati nella fede. Soltanto i parenti del giovane non vollero credere. Maledicendo l'adolescente se ne ritornarono in patria e presentarono i loro averi alle pubbliche autorità. E dopo 50 giorni morirono tutti e due nello spazio di un'ora. Ma siccome gli uomini di quella città volevano bene al giovane a causa della sua bontà e dolcezza, la pubblica autorità gli concesse tutto il patrimonio e così venne a possedere tutto quanto avevano posseduto i suoi parenti. Con ciò però non si allontanava dall'apostolo, bensì distribuiva i proventi dei campi per i bisogni dei poveri e per le cure degli indigenti. 13. Il figlio di Carpiano. Poi il giovane supplicò il beato apostolo affinché andassero insieme in Tessalonica. Quando giunsero, tutti gli si fecero intorno, lieti di rivedere il giovane. Radunatisi tutti nel teatro, il giovane predicava loro la parola di Dio. L'apostolo se ne stava zitto e tutti ammiravano la sua prudenza. E gridarono: «Salva il figlio del nostro concittadino Carpiano! Egli infatti è molto malato e noi crediamo nel Gesù che tu predichi». Il beato apostolo rispose loro: «Davanti a Dio non c'è nulla di impossibile. Ma abbiate fede, conducetelo qui al nostro cospetto e il Signore Gesù Cristo lo guarirà». Allora suo padre andò a casa e disse al fanciullo: «Oggi sarai guarito, carissimo figlio Adimato». Così si chiamava il fanciullo. Questi rispose: «Si è proprio avverato il mio sogno. In visione mi apparve, infatti, quest'uomo che mi avrebbe guarito». Così dicendo indossò i suoi abiti, s'alzò dal letto e, di corsa, si diresse al teatro per non essere seguito dai parenti. Prostratosi ai piedi del beato apostolo ringraziava della riacquistata salute. La gente stupiva nel vederlo camminare dopo 23 anni e dava gloria a Dio dicendo: «Non c'è alcuno che sia simile al Dio di Andrea». 14. Il giovane soffocato. Un cittadino che aveva un figlio colpito da uno spirito immondo pregava il beato apostolo dicendo: «Uomo di Dio, guarisci, te ne prego, mio figlio, tormentato malamente dal demonio». Ma il demonio, saputo che sarebbe stato scacciato, spinse il figlio in una cella segreta e lo soffocò strozzando con il laccio l'anima sua. Il padre del fanciullo, trovatolo morto, pianse molto e disse ai suoi amici: «Portate il cadavere al teatro. Confido, infatti, che potrà essere risuscitato dall'ospite che predica il vero Dio». Quando fu trasportato e posto davanti all'apostolo, egli raccontò come fosse stato ucciso dal demonio, e disse: «Uomo di Dio, credo che, per opera tua, egli potrà risorgere». L'apostolo, rivoltosi al popolo, domandò: «A che giova, uomini di Tessalonica, che vediate queste cose, se poi non credete?» Ma gli risposero: «Non dubitare, uomo di Dio. Quando costui sarà risorto, noi tutti crederemo». A queste parole l'apostolo disse: «In nome di Gesù Cristo, alzati, fanciullo». E subito risorse. Tutto il popolo, stupefatto, gridava: «Basta! Ora crediamo tutti al Dio che tu, servo di Dio, predichi». Siccome era già calata la notte, lo accompagnarono a casa con fiaccole e lucerne, l'introdussero a casa sua ove per 3 giorni li istruì sulle cose di Dio. XV. Il figlio di Medea. Andò da lui un certo uomo di Filippi di nome Medea, il cui figlio era ammalato in uno stato di estrema debolezza. Disse all'apostolo: «Uomo di Dio, ti supplico di restituirmi mio figlio, il cui corpo è ora in stato di estrema debolezza». Così dicendo, piangeva molto. Il beato apostolo, asciugandogli le guance e accarezzandogli il capo, diceva: «Sii forte, figlio. Credi soltanto, e i tuoi desideri saranno realizzati». E, presogli la mano, si diresse a Filippi. Mentre entrava dalla porta della città, un vecchio gli andò incontro pregando per i figli che, per una colpa indicibile, Medea aveva condannato alla pena del carcere ed erano coperti di ulcere purulente. Il santo apostolo, rivoltosi a Medea, disse: «Ascolta, uomo. Tu preghi affinché tuo figlio sia guarito mentre presso di te sono trattenute prigioniere persone dalle carni bruciate. Or dunque, se vuoi che le tue preghiere giungano a Dio, sciogli prima le catene dei miseri, e il tuo figlio sarà liberato dalla debolezza. Vedo, infatti, che la tua malizia rappresenta un impedimento alle mie preghiere». Allora Medea cadde ai suoi piedi e, baciandoli, disse: «Siano sciolti sia questi due che altri 7 dei quali non hai saputo nulla, purché mio figlio sia guarito». E ordinò che fossero presentati davanti al beato apostolo, il quale pose su di loro le mani, per 3 giorni lavò le loro piaghe, li restituì alla sanità e diede loro la libertà. Il giorno appresso disse al giovane: «In nome del Signore Gesù Cristo che mi ha mandato a curare la tua infermità, alzati». E, presogli la mano, lo sollevò, subito s'alzò e camminava glorificando Dio. Il giovane che per 22 anni era stato debole si chiamava Filionide. Siccome la gente gridava e diceva: «Servo di Dio, Andrea, guarisci anche i nostri malati», l'apostolo disse al giovane: «Va per le case ove ci sono malati e nel nome di Gesù Cristo, nel quale sei stato guarito, tu ordina loro di alzarsi». Ed egli, tra lo stupore della gente, andò per le case ove c'erano malati, e con l'invocazione del nome di Cristo restituiva loro la salute. Tutto il popolo credette, offrendo regali, domandavano di ascoltare la parola di Dio. Ma il beato apostolo predicava la parola e non prendeva alcun regalo. 16. La figlia di Nicola. Un cittadino di nome Nicola mostrò una carrozza dorata con quattro candidi muli e l'offrì al beato apostolo, dicendo: «Prendi, servo di Dio. Tra quanto mi appartiene non trovai nulla di più amabile. Desidero solo che sia guarita mia figlia tormentata da una grave tortura». E il beato apostolo a lui: «Accetto i tuoi doni, Nicola, ma non questi visibili. Se, infatti, per tua figlia offri quanto avevi di prezioso a casa, tanto più devi offrire per la tua anima. Da te desidero ricevere questo, che l'uomo interiore conosca il vero Dio suo fattore e creatore di tutte le cose, che respinga le cose terrene e desideri le celesti, che trascuri le caduche e ami le durature, che rinneghi le cose visibili e che con la contemplazione scorga le tensioni spirituali, affinché tu, dopo aver esercitato i sensi in queste cose, possa meritare di raggiungere la vita eterna, e in quelle gioie eterne goda anche di questa figlia restituita alla sanità». Così dicendoli persuase tutti ad abbandonare gli idoli e a credere nel Dio vero. Guarì poi la figlia di Nicola dalla sua infermità e tutti lo magnificavano. Mentre nell'intera Macedonia si diffondeva la fama dei prodigi che operava sopra gli infermi. 17. Un indemoniato. Il giorno seguente, mentre egli insegnava, un giovane gridò a gran voce: «Che c'è tra te e noi, Andrea, servo di Dio? Sei venuto per togliersi dalle nostre dimore». Allora il beato apostolo chiamò a sé il giovane e disse: «Racconta, operatore di delitti, quale sia il tuo lavoro?» Ed egli: «Io ho dimorato in questo giovane fin dalla sua fanciullezza, pensando che mai ne sarei stato allontanato. Ma tre giorni addietro ho udito suo padre che diceva a un amico: "Vado da un uomo, Andrea, che è servo di Dio ed egli guarirà mio figlio. Ed ora, temendo i tormenti ai quali tu ci condanni, sono venuto per uscire da lui davanti a te». Così dicendo, si prostrò ai piedi dell'apostolo e uscì dal giovane, il quale guarì e esalzò glorificando Dio. Era così grande la grazia da Dio concessa al santo apostolo, che spontaneamente venivano tutti a sentire la parola della salvezza, dicendo: «Spiegaci, uomo di Dio, chi è il vero Dio nel cui nome guarisci i nostri malati?» Ma anche i filosofi andavano a discutere con lui e nessuno poteva resistere al suo insegnamento. 18. Il proconsole Virino e i suoi soldati. Mentre accadevano queste cose venne fuori un nemico della predicazione apostolica e andò dal proconsole Virino, dicendo: «A Tessalonica venne un uomo iniquo che predica la distruzione dei templi degli dèi, l'eliminazione delle cerimonie e lo sradicamento di tutte le norme dell'antica legge. Predica il culto di un solo Dio, del quale afferma di essere servo». Udito ciò, il proconsole mandò soldati con cavalieri affinché lo conducessero in sua presenza. Giunti, costoro, alla porta della casa nella quale avevano saputo che si trovava l'apostolo, entrarono, ma videro il suo volto risplendere di un tale fulgore che ne rimasero atterriti, e caddero ai suoi piedi. Il beato apostolo stava proprio raccontando ai presenti quanto, a suo riguardo, era stato detto al proconsole. Giunse intanto una moltitudine con spade e bastoni, nell'intento di uccidere i soldati, ma il santo apostolo lo proibì. Intanto il proconsole, vedendo che l'apostolo non gli era stato condotto come aveva ordinato, fremette come un leone e mandò altri 20 soldati. Anche questi salirono nella casa, ma alla vista dell'apostolo restarono turbati e non dissero nulla. Udito ciò, il proconsole montò sulle furie e inviò un grande numero di soldati affinché lo portassero davanti a lui con la forza. Appena li vide, l'apostolo disse: «Siete, forse, venuti per me? Ed essi, per te, se tu sei quel mago che predica di non venerare gli dèi?» Egli rispose: «Io non sono un mago, ma un apostolo del mio Dio Gesù Cristo, che io predico». Mentre capitavano queste cose, un soldato, trascinato da un demone, estrasse la spada, esclamando: «Che c'è tra me e te, proconsole Avirino, che mi hai mandato da un uomo che non solo mi può scacciare da questo vaso, ma può anche bruciarmi con i suoi miracoli? Volesse il cielo che tu gli venissi incontro e non facessi alcun male contro di lui». Terminato che ebbe di dire questo, il demone si allontanò dal soldato, il quale cadde e morì. Nel mentre giunse il proconsole, tutto furente, e pur stando presso il santo apostolo non riusciva a vederlo. Ma egli disse: «Io sono colui che tu cerchi, proconsole». Immediatamente gli si aprirono gli occhi, lo vide e disse sdegnato: «Che genere di pazzia è questa? Tu disprezzi il nostro ordine e sottoponi alle tue parole i nostri ministri? È chiaro che tu sei mago e malefico. Ora ti sottoporrò alle fiere per il disprezzo degli dèi e di noi, e allora vedrai se il crocifisso che tu predichi ti potrà liberare». Il beato apostolo rispose: «È necessario che tu creda, proconsole, al Dio vero e a suo figlio Gesù Cristo da lui mandato, particolarmente vedendo come si è interessato anche uno dei tuoi soldati». Prostratosi in preghiera il santo apostolo elevò per lungo tempo preghiere al Signore, poi toccò il soldato, dicendo: «Alzati! Ti risuscita il mio Dio Gesù Cristo, che io predico». Subito il soldato s'alzò e stette dritto sano e salvo. Siccome il popolo esclamava: «Gloria al nostro Dio!», il proconsole disse: «Non crediate, gente, non crediate al mago». Ma il popolo gridava: «Questa non è magia, ma insegnamento sano e vero». Il proconsole replicò: «Quest'uomo lo darò alle fiere, e da vostro riguardo scriverò al Cesare affinché vi faccia perire al più presto, già che vi lipendete le sue leggi». Il popolo voleva coprirlo con pietre e diceva: «Sì, scrivi pure al Cesare che i Macedoni hanno accolto la parola di Dio e, disprezzando gli idoli, adorano il Dio vero». L'apostolo condannato alle fiere. Allora il proconsole se ne andò adirato al pretorio. Al mattino fece mettere fiere nello stadio e poi ordinò che fosse trascinato il beato apostolo e gettato nello stadio. Fu preso, dunque, tirato per i capelli, spinto con bastoni e gettato nell'arena. Liberarono un cinghiale feroce e terribile. Questo fece, per tre volte, il giro del santo di Dio, ma non gli fece nulla. Alla vista di ciò, il popolo diede gloria a Dio. Ma il proconsole ordinò nuovamente di liberare un toro, condotto da 30 soldati e spinto da 2 cacciatori. Non toccò Andrea, bensì fece a pezzi i cacciatori. Poi mandò un mugito. Cadde e morì. Subito, il popolo acclamò dicendo: «Cristo è il vero Dio!». Mentre accadevano tali cose, fu visto un angelo di Dio discendere dal cielo per confortare il santo apostolo nello stadio. Finalmente il proconsole, furente, ordinò di liberare un ferocissimo leopardo. Appena liberato, scansò il popolo, salì al sedile del proconsole, afferrò suo figlio e lo soffocò. Ma il proconsole era sotto una tale demenza che di fronte a tutte queste cose si doleva parlava. Allora il beato apostolo disse, rivolto al popolo: «Ora sappiate che venerate il Dio vero, per opera del quale sono state vinte le bestie, mentre il proconsole virino lo ignora. Ma affinché crediate con più facilità, io risusciterò anche suo figlio nel nome di Cristo che predico, e lo stoltissimo suo padre ne resterà confuso». Prostratosi a terra, pregò molto a lungo. Poi, afferrata la mano del soffocato, lo risuscitò. A questa vista, il popolo magnificava Dio e voleva uccidere Virino, ma l'apostolo non lo permise. Virino, confuso, si ritirò nel suo pretorio. 19. Il serpente straordinario. Quando accadevano queste cose, un giovane che era con l'apostolo raccontò alla madre quanto era avvenuto e l'indusse ad andare incontro al santo. Lei andò, gli si prostrò ai piedi e anelava ascoltare la parola di Dio. Poi, quando ebbe terminata la predicazione, lo supplicò di andare in un suo campo ove c'era un serpente di straordinaria grandezza che devastava tutta la zona. Quando l'apostolo si stava avvicinando, esso gli andò incontro a testa alta, emettendo grandi sibili. Era lungo 50 cubiti e tutti presenti, atterriti dalla paura, si prostrarono a terra. Il santo di Dio gli disse: «Nascondi la testa, o funesto, che hai retto in principio a rovina del genere umano, assoggettati ai servi di Dio e muori». All'istante, il serpente emise un terribile ruggito, circondò una vicina quercia, le si avvolse stretto e, vomitando un fiume di veleno e sangue, morì. Il santo apostolo giunse poi al campo della donna ove giaceva morto un bambino che era stato percosso dal serpente. Vedendo i suoi parenti piangere, disse loro: «Il nostro Dio, che vuole la vostra salvezza, mi ha mandato qui affinché crediate in Lui. Or dunque andate a vedere l'uccisore di vostro figlio, morto». Essi risposero: «Se vediamo che è stato vendicato, noi non rimpiangeremo la morte del figlio». Quando questi se ne furono andati, l'apostolo disse alla moglie del proconsole: «Va a risuscitare il bambino». E lei, senza alcuna esitazione, andò là ove era il corpo e disse: «In nome del mio Dio Gesù Cristo, alzati fanciullo, sano e salvo». E subito risorse. I suoi parenti, visto il serpente morto, ritornarono lieti e trovarono il loro figlio vivo. Si prostrarono allora ai piedi dell'apostolo e ringraziavano. 20. Un sogno dell'apostolo. Il giorno appresso il beato apostolo vide un sogno che raccontò così ai fratelli: «Ascoltate, carissimi, il mio sogno. Vidi un monte straordinariamente alto, spoglio di qualsiasi cosa terrena ad eccezione di una luce così splendente che pareva illuminasse tutto il mondo. Ed ecco accanto a me i carissimi fratelli apostoli Pietro e Giovanni». Giovanni stese una mano all'apostolo Pietro e l'innalzò in cima al monte. Poi, rivoltosi a me, mi pregò di salire dopo Pietro, dicendo: «Andrea, tu berrai il calice di Pietro». Poi, stese le mani, mi disse: «Avvicinati, allunga le tue mani per avvicinarle alle mie e unire il tuo capo al mio capo». Ciò fatto, mi trovai più piccolo di Giovanni. Poi mi disse: «Vuoi conoscere il significato di quanto tu vedi e chi sia colui che ti parla?» E io: «Desidero conoscere queste cose». Ed egli a me: «Io sono la parola della croce dalla quale prossimamente tu penderai per il nome di colui che tu predichi». Mi disse pure molte altre cose che ora è necessario tacere, ma appariranno manifeste allorché mi accosterò a questa immolazione. Si radunino ora tutti coloro che hanno accolto la parola di Dio e io li raccomanderò al Signore Gesù Cristo affinché voglia custodirli immacolati nella sua dottrina. Io ormai mi stacco dal corpo e vado a raggiungere quella promessa che si è degnato concedermi il dominatore dei cieli e della terra, Figlio del Dio Onnipotente, che con lo Spirito Santo, vero Dio, vive per sempre nei secoli». Udendo queste cose, i fratelli piangevano molto e con un grande gemito colpivano con le mani le loro facce. Quando furono tutti radunati, disse nuovamente: «Sappite, carissimi, che io sto per allontanarmi da voi. Ma credo che Gesù, del quale predico la parola, vi custodirà dal male, sicché il nemico non sradicherà il seme che ho seminato tra voi, cioè la conoscenza e la dottrina di Gesù Cristo, mio Signore. Voi dunque pregate con costanza, e perseverate forti nella fede, sicché, eliminata ogni zizzania di scandalo, il Signore si degni di raccogliervi nel granaio celeste come grano puro. E così per 5 giorni li ammaestrava e confermava nei precetti di Dio. Poi, allargate le mani, pregò il Signore, dicendo, custodisci, ti prego, Signore, questo gregge che già ha conosciuto la tua salvezza, sicché contro di lui non prevalga il maligno e ottenga di custodire inviolato per tutti i secoli quanto, per tuo ordine, io ho trasmesso ed egli ha accolto. Allorché terminò di dire ciò, tutti i presenti risposero, Amen. Egli allora prese del pane, ringraziò, lo spezzò e ne diede a tutti, dicendo, Accogliete la grazia che Cristo Signore, nostro Dio, vi offre per mezzo di me, suo servo. Dopo avere baciato e raccomandato al Signore ognuno, partì per Tessalonica, qui rimase 2 giorni poi si allontanò da essi. 21. Da Tessalonica a Patrasso molti fedeli della Macedonia lo accompagnarono con 2 navi. Nel desiderio di sentire le sue parole, tutti bramavano salire sulla nave nella quale viaggiava l'Apostolo, affinché anche in mare non mancasse loro la parola di Dio. Ma l'Apostolo disse loro, «Conosco il vostro desiderio, però questa nave è troppo piccola». I fanciulli e il bagaglio siano dunque caricati sulla nave più grande. Voi, invece, salite su questa più piccola e viaggeremo insieme. Diede loro attimo affinché li consolasse, poi ordinò che salissero su di un'altra nave che doveva essere sempre vicina alla sua in modo che anch'essi lo potessero vedere e udire la parola di Dio. Mentre egli prendeva un po' di sonno, a causa di un leggero colpo di vento uno cadde in mare. Antimo lo svegliò, dicendogli, «Aiuto, dottore buono! È perito uno dei tuoi servi!» Appena si svegliò, l'apostolo rimproverò e fece quietare il vento, e il mare ritornò tranquillo. Mentre l'uomo, che era caduto, fu accompagnato alla nave con l'aiuto dell'onda e Antimo, presolo per mano, lo tirò sulla nave. Tutti ammirarono la virtù dell'apostolo e il fatto che fosse obbedito anche dal mare. Il 12° giorno approdarono a Patrasso, città dell'Acaia. Scesi dalla nave presero posto in un albergo. 22. Il proconsole Lisbio. Siccome molti lo pregavano che andasse in casa loro, egli rispose, «Viva il Signore! Non andrò se non dove mi ordinerà il Signore». Ma nel sonno notturno non ebbe alcuna rivelazione. Essendone triste, Il giorno appresso udì una voce che gli diceva: «Io sono sempre con te, Andrea, e non ti abbandono». Udito ciò, glorificò Dio per la visione. Il proconsole Lisbio fu avvertito, in sogno, di accogliere l'uomo di Dio. Mandò dunque dall'uomo che aveva dato loro ospitalità affinché gli conducesse il beato apostolo. A questa notizia, andò dal proconsole, entrò nella sua camera e lo trovò disteso con gli occhi chiusi quasi fosse morto. Gli diede allora un pizzico a un fianco e gli disse: «Alzati e raccontaci quanto ti è accaduto». «Io», rispose, «odiavo la via che tu insegni e ho inviato delle navi con soldati al proconsole della Macedonia affinché ti mandasse incatenato qui da me, per condannarti a morte, ma a causa di naufragi non riuscirono ad arrivare dove erano stati mandati». Persistendo io nella mia intenzione di annientare la tua vita, mi apparvero due etiopi che mi colpirono con flagelli, dicendo: «Non abbiamo qui più alcun potere perché venne quell'uomo che tu volevi perseguitare. Ma in questa notte nella quale abbiamo ancora potere ci vendichiamo contro di te». E lasciatomi gravemente ferito si allontanarono da me. Tu ora, uomo di Dio, supplica il Signore affinché, perdonandomi questo delitto, io sia guarito dall'infermità che mi ha colpito. Dopo che ebbe terminato di raccontare questo davanti a tutto il popolo, il beato apostolo predicò subito la parola di Dio e credettero tutti. Il proconsole poi, guarito, credette e fu confermato nella fede. 23. La concubina Trofima. Allora Trofima, che una volta era stata concubina del proconsole e che ora si era già associata a un altro uomo, aderì all'insegnamento apostolico e perciò a volte andava in casa del proconsole ove insegnava sempre l'apostolo. Il suo uomo, adirato, andò dalla sua signora e lei disse: «Memore della condotta di prostituta che aveva tenuto con il signor mio proconsole, ora è nuovamente ritornata a lui». E lei, piena di fiele, esclamò: «Per questo motivo, dunque, mio marito mi ha abbandonato e ormai da 6 mesi non si unisce più a me. Egli ama la sua ancella». Chiamato il procuratore, ordinò che fosse condannata per prostituzione e, senza indugio, fu condotta al postribolo e affidata al mezzano. Ma Lisbio non sapeva nulla di tutto ciò, la cercava, ma era illuso dalla moglie. Lei poi, entrata nel postribolo, pregava con assiduità. Quando venivano quelli che volevano toccarla, lei poneva il Vangelo che portava seco sul suo petto e subito chi le si avvicinava perdeva le forze. Un giorno venne un uomo impudicissimo per oltraggiarla e, siccome lei resisteva, quello le stracciò le vesti, e il Vangelo cadde a terra. Allora Trofima, lacrimando, stese la mani al cielo e disse: «Tu, Signore, in nome del quale io amo la castità, non permettere che sia contaminata. Subito le apparve un angelo del Signore, e il giovane cadde morto ai suoi piedi, mentre lei, rasserenata, benediceva e glorificava il Signore che non aveva permesso che si facesse beffa di lei. Ma poi, nel nome di Gesù Cristo, risuscitò il giovane e tutta la città accorse a vedere questo spettacolo. La moglie del proconsole andò invece al bagno con il suo procuratore. E mentre si lavavano apparve loro un terribile demone che li percosse tutti e due e caddero morti. Si elevò allora un gran pianto, mentre all'apostolo e al proconsole fu comunicato che sua moglie era morta con un mezzano. A questa notizia, il beato Andrea disse al popolo: «Vedete, carissimi, quanto sia grande il potere del nemico. Trofima, infatti, fu condannata al postribolo a causa della sua pudicizia, ma ora è apparso il giudizio di Dio, la madre di famiglia che la fece condannare al postribolo, fu colpita al bagno con il suo mezzano e morì». Mentre egli diceva questo, giunse la sua nutrice, che per l'età avanzata era retta da altri, con le vesti stracciate e alte grida. Posta davanti all'apostolo incominciò a pregare, dicendo: «Sappiamo che sei amato da Dio e che il tuo Dio ti concede qualsiasi cosa tu gli domandi. Abbi pietà di me, risuscitala». Commosso dalle lacrime della donna, il beato apostolo si rivolse al proconsole e gli disse: «Vuoi che sia risuscitata?» «Non sia mai», rispose, «che viva colei che ha commesso in casa mia una tale infamia». E l'apostolo: «Non agire così», disse, «dobbiamo avere misericordia di chi si pente, affinché anche noi otteniamo misericordia da Dio». Callista, moglie del proconsole. Dopo queste parole, il proconsole andò al pretorio, mentre il santo apostolo ordinò che fosse portato il corpo. Poi, avvicinatosi, disse: «Ti prego, Gesù Cristo, Signore benigno, affinché questa donna sia risuscitata e conoscano tutti che tu solo, Signore Dio, sei misericordioso e giusto, e non permetti che periscano gli innocenti». Toccò poi la testa della donna, dicendo: «In nome di Gesù Cristo, mio Dio, alzati». Subito la donna risorse e, a faccia bassa, piangendo e gemendo, guardava a terra. L'apostolo le disse: «Entra in camera tua e prega ritirata, fino a quando il Signore ti conforterà». Lei rispose: «Fammi prima rappacificare con Trofima, contro la quale ho agito così male». Il santo apostolo rispose: «Non temere. Trofima, infatti, non si ricorda più del male, attende la vendetta, bensì ringrazia Dio di tutto ciò che le è accaduto». E chiamata Trofima la rappacificò con Callista, La moglie del proconsole risuscitata. Lisbio fece tanto progresso nella fede che un giorno si accostò all'apostolo e gli confessò tutti i suoi peccati. L'apostolo gli disse: «Ringrazio il Signore, figlio, che tu temi il giudizio futuro. Comportati virilmente e abbi fiducia nel Signore al quale credi». E, tenendolo per mano, camminava lungo la spiaggia. 24. Il giovane filopatore annegato e risuscitato. Dopo la passeggiata si sedettero e con essi si sedettero sulla sabbia anche tutti quelli che erano con loro per ascoltare la parola di Dio. Quand'ecco sulla spiaggia, ai piedi dell'apostolo, il cadavere di una persona uccisa e gettata in mare. Allora Sant'Andrea apostolo esultò nel Signore, e disse: «Bisogna che costui sia risuscitato affinché conosciamo che cosa gli ha fatto il nemico». Poi elevò una preghiera, prese il morto per mano, lo alzò, e subito rivisse e prese a parlare. Siccome era nudo, gli diede la tunica e gli domandò: «Racconta ed esponi per ordine tutto ciò che ti è capitato». Ed egli rispose: «Chiunque tu sia, uomo, non ti nasconderò nulla. Io sono figlio di Sostrato, cittadino macedone, giunto da poco dall'Italia. Quando giunsi a casa, udii che era sorta una nuova dottrina, mai sentita prima da alcun uomo, non solo, ma che da un certo maestro, che affermava di essere discepolo del vero Dio, erano compiuti segni, prodigi e guarigioni molteplici. Quando ebbi notizia di queste cose, mi preparai per poterlo vedere. Ritenevo, infatti, che uno che operava tali cose non poteva essere che Dio. Mentre dunque navigavo con i miei servi e amici, si scatenò una tempesta e a causa del mare mosso siamo stati sepolti dalle onde. Volesse il cielo che fossimo stati gettati tutti insieme, di modo che anch'essi fossero poi risuscitati da te come lo fui io». Mentre diceva questo rimuginava molto in cuor suo riflettendo che proprio quello doveva essere l'apostolo che cercava. Gli si gettò, dunque, ai piedi dicendo: «So che tu sei il servo del vero Dio. Ti supplico per coloro che erano con me, affinché anch'essi, con il tuo intervento, ottengano la vita e conoscano il Dio vero che tu predichi». Allora il santo apostolo, pieno di Spirito Santo, gli predicava costantemente la parola di Dio, mentre il giovane ammirava il suo insegnamento. E aperte le mani, disse: «Fai apparire, Signore, te ne prego, anche i cadaveri degli altri morti affinché anch'essi conoscano te, solo Dio vero». Dopo che egli parlò così, subito apparvero sulla spiaggia 39 corpi trasportati con l'aiuto delle onde. Allora il giovane prese a piangere e con lui tutti gli altri prostrati ai piedi dell'apostolo e lo pregavano affinché anche essi fossero risuscitati. Ma Filopatore, questo era il nome del giovane, diceva: «La benevolenza di mio padre, con le cose necessarie, mi ha fornito anche di molto denaro. Quando udrà quanto mi è accaduto, bestemmierà il tuo Dio e rifiuterà il tuo insegnamento. Non voglia il cielo che sia così. Mentre tutti piangevano, l'Apostolo pregò che tutti i corpi si radunassero insieme, erano, infatti, stati gettati sparsi. Quando furono radunati insieme, l'Apostolo domandò: chi vuoi che sia risuscitato per primo? Rispose: Varo, mio fratello di latte. Allora, in ginocchio per terra, le mani aperte verso il cielo, pregò molto a lungo con lacrime, dicendo: Gesù buono, risuscita questo morto, nutrito con Filopatore, affinché conosca la tua gloria e sia magnificato il tuo nome tra i popoli. Il giovane subito s'alzò e tutti i presenti ne furono stupiti. L'Apostolo pregò nuovamente su di ognuno, dicendo: Ti prego, Signore Gesù, affinché risorgano anche questi, trasportati dal profondo del mare. Poi ordinò che ognuno dei fratelli, tenendo per mano un morto, dicesse: Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, ti risuscita. Ciò fatto, i 38 risuscitarono, e i presenti glorificarono Dio dicendo: Non c'è alcuno simile a te, Signore. Lisbio poi offrì a Filopatore molti doni, dicendo: Non rattristarti per la perdita delle ricchezze e non ti allontanare dal servo di Dio. E restava sempre con l'Apostolo, attento a tutto quanto era detto da lui. 25. A Corinto da Calliope. C'era una donna di nome Calliope che, sposata con un omicida, rimase illecitamente incinta. Quando giunse il momento del parto era vinta da grandi dolori, ma non riusciva a partorire. Disse allora a sua sorella: Va, ti prego, a invocare la nostra dea Diana affinché abbia pietà di me. Lei, infatti, aveva amore per la partoriente. Mentre la sorella compiva quanto le era stato comandato, di notte andò da lei il diavolo e le disse: Perché mi supplichi inutilmente, dato che non ti posso essere utile? Va piuttosto dall'apostolo di Dio Andrea, in Acaia, egli avrà misericordia di tua sorella. La donna allora s'alzò, andò dall'apostolo e gli raccontò tutte queste cose. Ed egli, senza indugio, andò a Corinto in casa della donna malata. Con lui c'era anche il proconsole Lisbio. Alla vista della donna torturata dal tormento dei dolori lancinanti, il beato apostolo disse: Giustamente soffri. Ma alla mente ti sei sposata, con inganno hai concepito, e perciò soffri intollerabili dolori. Sei andata inoltre a consultare i demoni che non possono giovare a se stessi ad alcun altro. Credi, ora, in Gesù Cristo, Figlio di Dio, e partorisci. Tuttavia quello che indegnamente hai concepito sarà morto. La donna credette? Usciti tutti dalla camera, partorì un morto e fu così liberata dai dolori. 26. Andrea e Filopatore. Mentre il beato apostolo, a Corinto, seguitava a compiere molti segni e prodigi, Sostrato, padre di Filopatore, fu avvertito in sogno di visitare l'apostolo. Giunse dunque in Acaia, ma non trovandolo, andò a Corinto. Stava passeggiando con Lisbio e altri allorché Sostrato riconobbe quello che gli era stato mostrato in sogno e, abbracciatogli i piedi, disse: «Ti prego di avere misericordia di me, servo di Dio, come hai avuto misericordia di mio figlio». Filopatore disse all'apostolo: «Questo che vedi è mio padre. Egli ora domanda che cosa debba fare». Il beato apostolo rispose: «So che è venuto da noi per conoscere la verità. Ringraziamo il Signore nostro Gesù Cristo che volle rivelarsi ai credenti». Lo zio, servo di Sostrato, gli disse: «Vedi di quale luce risplende il volto di questo uomo?» Egli rispose: «Vedo, carissimo. Non allontaniamoci quindi da lui, ma viviamo con lui e ascoltiamo le parole di vita eterna». Il giorno seguente offrì all'apostolo molti doni. Ma il santo di Dio rispose: «Non è mia abitudine ricevere alcunché da voi. Il mio guadagno siete voi stessi allorché crederete in Gesù che mi ha mandato a evangelizzare in questo luogo. Se avessi desiderato del denaro, avrei già trovato Lisbio che è più ricco e mi potrebbe arricchire molto. Per me, infatti, i vostri doni sono le cose che giovano alla vostra salvezza». 27. Andrea al bagno. Pochi giorni dopo diede ordine che gli si preparasse un bagno. Quando giunse per lavarsi, vide un vecchio indemoniato che tremava molto. Mentre lo stava osservando, un giovane uscì dalla piscina, si gettò ai piedi dell'apostolo dicendo: «Che c'è tra noi e te, Andrea? Sei venuto qui per scacciarci dalle nostre dimore». Dritto, davanti a tutto il popolo, l'apostolo rispose: «Non abbiate timore. Credete in Gesù, nostro Salvatore». Avendo risposto tutti: «Crediamo a ciò che tu predichi». Egli sgridò ambedue i demoni. Questi abbandonarono i corpi degli ossessi, sicché tanto il vecchio che il giovane se ne tornarono a casa liberi. Mentre il beato apostolo si lavava, affermava che il nemico del genere umano tende insidie ovunque, sia nei bagni che nei fiumi, e che perciò si deve invocare costantemente il nome del Signore affinché colui che tende le insidie non raggiunga il suo scopo. Di fronte a questo, i cittadini giungevano portando malati che ponevano davanti a lui, e venivano guariti. Ma anche da altre città giungevano con malati, anch'essi venivano guariti e ascoltavano volentieri la parola di Dio. 28. Il vecchio peccatore Nicola. Accadevano queste cose, allorché un vecchio, di nome Nicola, giunse dall'apostolo con gli abiti stracciati, dicendo: «Servo di Dio, 74 sono gli anni della mia vita, e mai mi sono allontanato da azioni impure, da prostitute e dalla fornicazione. Spesso fui spinto ciecamente al postribolo e praticavo cose illecite. E ora è il terzo giorno che sento parlare dei miracoli che fai e della tua predicazione piena di parole vitali». Riflettevo dunque di abbandonare questa mia condotta e venire da te affinché mi indirizzi verso cose migliori. Ma mentre pensavo a ciò, sentivo in me uno sentimento contrario che mi suggeriva di lasciare stare e di non compiere il bene al quale riflettevo. Lottando dunque così con la mia coscienza, presi il Vangelo e pregai il Signore affinché mi facesse, una buona volta, dimenticare quelle cose. Ma dopo pochi giorni, dimentico del Vangelo che avevo addosso e infiammato da un pensiero perverso andai nuovamente al postribolo. Ed ecco che là una prostituta, appena mi vide, disse: «Esci, vecchio, esci. Tu sei, infatti, un angelo di Dio. Non toccarmi né avvicinarti a questo luogo. Io vedo in te un grande mistero». E mentre, meravigliato, riflettevo quale fosse il significato di tutto ciò, mi ricordai di avere con me il Vangelo. Allora me ne tornai indietro e venni da te, servo di Dio, affinché abbia pietà dei miei errori. Ho, infatti, la più grande speranza di non perire, se tu pregherai per la mia miseria. Udito questo, il beato Andrea espose molte cose contro la fornicazione. Poi, inginocchiatosi, aprì le mani e pregava in silenzio mandando gemiti e piangendo dall'ora sesta fino all'ora nona del giorno. Quando poi s'alzò si lavò la faccia, ma non volle prendere nulla. Diceva: «Non mangerò fino a quando non saprò se Dio avrà misericordia di quest'uomo e se sarà annoverato tra i salvati». Digiuò ancora il giorno appresso, ma su quell'uomo non gli fu rivelato nulla fino al quinto giorno, allorché, piangendo, esclamava: «Signore, otteniamo la tua misericordia per i morti, e costui, che desidera conoscere le tue grandezze, perché non ritorna affinché tu lo possa guarire?» Appena disse così giunse una voce dal cielo, dicendo: «Andrea, otterrai quanto chiedi per il vecchio. Ma come tu ti sei logorato con digiuni, così anche egli, per salvarsi, si applichi al digiuno». Chiamatolo, gli predicò l'astinenza. Nel sesto giorno convoò i suoi e li invitò a pregare per lui, e prostrati a terra, pregavano: «Signore, pio e misericordioso, perdona a quest'uomo il suo delitto». Dopo di ciò mangiò e permise a tutti gli altri di mangiare. Ritornato a casa sua, distribuì ai bisognosi tutto quello che aveva Fece poi così tanta penitenza che per 6 mesi non si nutriva d'altro che di acqua e pane secco. Terminata l'equa penitenza, passò da questo mondo. Il beato apostolo non era presente, ma nel luogo in cui si trovava udì una voce: Andrea, Nicola, per il quale tu hai pregato è diventato mio. Allora ringraziò, comunicò ai fratelli che Nicola aveva abbandonato il corpo e pregò affinché riposasse in pace. 29. Andrea a Megara. Nel luogo in cui si trovava, andò da lui Antifane, cittadino di Megara, e gli disse: Beato Andrea, sentece bontà, conforme al precetto del Salvatore che tu predichi, dimostrala liberando la mia casa dall'insidia che la minaccia, è, infatti, molto tormentata. Il santo apostolo gli disse: Racconta, uomo, che cosa ti è capitato? Ed egli, ritornando a casa da un viaggio, mentre passavo per la porta del mio atrio, udii la voce del portiere che gridava miseramente. Quando domandai il perché di quelle grida, i presenti mi risposero che lui, moglie e figlio erano malamente tormentati dal demonio. Salito poi ai piani superiori della casa, vidi altri servi che stridevano i denti e, guardandomi con un riso insano, volevano gettarsi contro di me. Oltrepassati questi, salii ancora ai piani superiori ove giaceva mia moglie terribilmente bastonata da costoro, ed era così sconvolta per la sopportazione di quella follia che, con i capelli sugli occhi, non poteva né guardare né riconoscere. Ti prego di restituirmi soltanto questa. Degli altri non mi curo. Allora il santo apostolo ne fu commosso e disse: Presso Dio non esistono preferenze. Egli, infatti, venne per salvare tutti coloro che periscono. E proseguì: Andiamo a casa sua. Quando, preceduto da uno spartano, giunse a Megara, appena entrarono per la porta di casa tutti i demoni gridarono a una sola voce: Perché, Sant'Andrea, ci perseguiti qui? Perché entri in una casa che non è tua? Tieni quanto è tuo, e non avere l'ardire di penetrare laddove non ti è concesso. Ma il santo apostolo, molto stupito da tutto ciò, salì nella camera ove giaceva la donna, e, fatta una preghiera, le prese la mano e disse: Il Signore Gesù Cristo ti guarisce. E subito la donna s'alzò dal letto ove giaceva e benedisse Dio. Così con l'imposizione delle mani, restituì pure la salute a ognuno di coloro che erano tormentati dal demonio. Di lì in poi ebbe in Antifane e sua moglie 2 validissimi aiuti per la predicazione della parola di Dio. 30. Massimilla, moglie del proconsole Egea. Quando giunse nella città di Patrasso, dove il proconsole Egea era succeduto a Lisbio, gli si avvicinò una donna di nome Efidama, che si era convertita alla dottrina da un certo Sosia, discepolo di un apostolico e abbracciando i piedi del beato apostolo, disse: Sant'Andrea, la mia signora Massimilla colpita da grande febbre, ti prega di andare da lei. Volentieri, infatti, desidera ascoltare la tua dottrina. Il proconsole, suo marito, sta davanti al lettuccio e, piangendo, tiene in mano la spada per trafiggersi non appena lei avrà esalato lo spirito. Allora, preceduto da Efidama, andò nella camera dove giaceva la donna malata. Visto il preside, con la spada sguainata, disse: Non farti alcun male ora. Metti la spada al suo posto. Verrà il tempo in cui sarà da sguainare per noi. Ma il preside non comprese nulla e fece posto a colui che si avvicinava. Giunto davanti al letto dell'inferma, l'apostolo fece una preghiera. Poi le prese una mano e subito la donna sudò abbondantemente, la febbre la lasciò e l'apostolo ordinò che le fosse dato da mangiare. Il proconsole, infine, offrì al santo di Dio 100 pezzi d'argento, il quale, però, non volle neppure guardarli. 31. Molte guarigioni. Allontanatosi di là, vide un uomo senza forza che giaceva nell'immondezza e al quale molti cittadini offrivano l'elemosina affinché potesse mangiare. L'apostolo gli disse: In nome di Gesù Cristo, alzati guarito. E subito s'alzò e glorificava Dio. 32. Andato in un altro luogo, e visto un uomo cieco con la moglie e il figlio, disse: Questa è proprio un'opera del diavolo. Ecco quelli che ha accecati nella mente e nel corpo. E proseguì: In nome del mio Dio, Gesù Cristo, io vi restituisco la luce degli occhi corporali. Egli poi si degni di illuminare le tenebre delle vostre menti affinché, conosciuta la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, possiate essere salvi. Impose su di loro le mani e aprì i loro occhi. Ed essi, prostratisi, baciavano i suoi piedi e dicevano: Non c'è altro Dio all'infuori di quello che predica il suo servo Andrea. 33. Il marinaio malato. Vedendo questi segni, uno gli disse: Ti prego, servo di Dio, di degnarti andare fino al porto ove si trova un uomo, figlio di un certo marinaio, che da 50 anni, espulso da casa, in una debolezza estrema, giace sulla spiaggia. E a nulla gli valsero le cure mediche. È pieno di piaghe ed è un brulichio di vermi. Quando questi terminò di dire tali cose, il beato apostolo lo seguì fino a lui. L'infermo lo guardò e domandò: Sei tu, forse, il discepolo di quel Dio che è il solo che può salvare? Il santo apostolo gli rispose: Io sono colui che, in nome del mio Dio, ti ridà la salute. E aggiunse: In nome di Gesù Cristo, alzati e seguimi. Abbandonati i panni purulenti e putrefatti, mentre sul suo corpo scorrevano vermi e pus, egli lo seguiva. Arrivati al mare, entrarono tutte e due nell'acqua, e il santo apostolo, lavandolo in nome della Santa Trinità, lo guarì in modo così perfetto che sul suo corpo non appariva più alcun indizio di quella malattia. 34. Mentre per opera del beato apostolo accadevano queste cose a Patrasso, venne dall'Italia Stratocleo, fratello del proconsole. Ed ecco uno dei servi che gli era molto caro, di nome Algmana, colpito da uno stimolo demoniaco, giaceva nell'atrio con la bava alla bocca, e ne derivò un grande tumulto. Quando a Stratocleo furono riferite queste cose, fu colpito da un forte dolore e disse: «Fossi stato ingoiato dal mare, piuttosto che assistere a queste cose a proposito del servo». Alla vista del suo dolore Massimilla e Fidama gli dicono: «Non rattristarti, fratello. Presto il servo sarà guarito. C'è qui, infatti, un uomo di Dio che, insegnando la via della salvezza, allontana molti dalla malattia restituendoli alla sanità completa. Mandiamolo a chiamare e il giovane guarirà subito». Quando finalmente raggiunsero l'apostolo, lo pregarono per il servo. Ed egli, presagli la mano, disse: «Alzati, giovane, in nome di Gesù Cristo, mio Dio, ch'io predico». E subito s'alzò sano e salvo. Stratocleo allora credette nel Signore e, corroborato nella fede, non si allontanava dall'apostolo, ma gli era sempre vicino e ascoltava la parola della salvezza. 35. Costanza di Massimilla e condanna di Andrea. Massimilla, venendo quotidianamente al pretorio, chiamava l'apostolo e ascoltava da lui la parola di Dio. Già che il proconsole si era allontanato da Patrasso ed era andato in Macedonia. Era, infatti, grandemente indignato contro l'apostolo per il fatto che sua moglie Massimilla, dopo che aveva accolto la parola, più non si univa a lui. Ritornato poi, mentre tutti se ne stavano seduti nel pretorio ad ascoltare la parola di Dio, furono sconcertati temendo che compisse qualche di prepotenza. Allora il santo apostolo pregò, dicendo: «Non permettere, Signore, che il proconsole entri in questo luogo fino a tanto che tutti se ne siano usciti». All'istante il proconsole sentì il bisogno di purgarsi il ventre, e mentre, andato alla ritirata, stava ritardando, il santo apostolo impose le mani su ognuno, li segnò e permise loro di andarsene. Per ultimo segnò se stesso e se ne andò. Non appena trovava il tempo, Massimilla andava dal santo apostolo e, ascoltata la parola di Dio, se ne ritornava a casa sua. 36. Dopo queste cose il beato apostolo fu preso dal proconsole Egea e messo in carcere. Tutti si radunavano da lui per sentire la parola della salvezza ed egli non cessava di predicare, notte e giorno, la parola di Dio. Ma dopo pochi giorni fu estratto dal carcere, fu colpito molto gravemente e sospeso a una croce dalla quale pendette per 3 giorni senza desistere dal predicare il Signore Salvatore. Nel 3° giorno, mentre tutto il popolo piangeva, egli esalò lo spirito, come è dichiarato abbondantemente nella lettura della sua passione. Sepoltura e miracoli. Il suo beato corpo fu preso da Massimilla, fu aromatizzato con profumi e posto nel sepolcro, su di esso pregava assiduamente il Signore, supplicando affinché il beato apostolo si ricordasse di lei. 37. Da questo sepolcro scaturiva manna sotto forma di farina e olio dal profumo gradevolissimo dal quale gli abitanti di quella regione deducono quale sarà la fertilità dell'anno in corso. Se ne scaturisce poco, la terra produrrà poco frutto. Se invece esce copioso, grande sarà l'abbondanza offerta dalla terra. Si dice, infatti, che quest'olio scorra fino in mezzo alla Santa Basilica, come abbiamo scritto nel primo libro dei Miracoli. L'epilogo. Non abbiamo seguito anche l'ordine della sua passione, perché abbiamo constatato che fu scritto in modo molto pratico ed elegante da un altro. 38. Questo è quanto io, con bocca indegna, con linguaggio rustico, con coscienza cattiva, ho osato divulgare a proposito dei miracoli del beato Andrea Apostolo, supplicando la sua misericordia affinché, come nel giorno della sua nascita io uscii dall'utero materno, così per sua intercessione sia liberato dall'inferno, e come iniziai il corso di questa vita nel giorno della sua passione, così egli si degni unirmi a se stesso come suo discepolo. E poiché una grande quantità di misfatti ci tiene lontani da più grandi meriti, io, temerario, oso chiedere soltanto questo: quando, dopo il giudizio, sarà reso conforme al corpo del Signore splendente di gloria, ottenga almeno che non sia negato il perdono ai miei gravissimi peccati. È terminato il libro del Vescovo Gregorio di Tours sui prodigi e miracoli del beato Andrea Apostolo.